di Radio 5. Ah, sì, che sono stesso qua. 9:10 e Radio 5 qua. Benissimo, benissimo. Ok. Che esce bene con la parecchia voglia. La radio com'è? Siete bene, sì, perfetta. Faccio un po' di microfono, un po' specialista, bella. Insomma, così così, a te cazzo. Sì, che stai arrivando bene, a voglia, ci mancherebbe. Sei perfetto. Sì, ok, anche tu vai bene qua. Anche tu vai bene qua, ok. Ti lascio, non ti preoccupare, sto abbassando qua. Come sarò? Compri di me, ti pare che non c'è nessuno per questo. Già c'è questa, per poco. Va bene, dai, sentiamo magari più tardi, ok, dai, per me è un po' di corrisco che sto abbassando qua. Compri di me sul celato, dai. Ehi, ok, ci sentiamo alla prossima, dai. Buon lavoro. Anch'io sto perdendo un po' l'allenamento con le orecchie. Non lo so, guarda, anch'io no, sto facendo poco e niente, quasi niente, sto lavorando mattina e sera, quindi il tempo è poco. Poco fa c'era Giulio, però mi è arrivata una bassa nel frattempo e non sono riuscito a rispondergli. Ah, ho capito. Arrivi discretamente, vabbè, come al solito, inutile dirlo. Poi c'era un altro segnale più basso, avanti sul 10. No, se tu stai entrando? No, poco e niente, ma più niente che poco. Avevo anche il cavo staccato perché c'erano i muratori che stavano operando nel terrazzino. Fra, devo andare sui fornelli in fretta che sta bollendo qualcosa. A dopo. Già un abbraccio se non dovessimo sentirci, ciao, stai bene. Avanti. L'ho spento, No, ti spiego, siccome è una caffettiera inox che sto sverginando oggi, è nuova, comprata oggi, però ha proprio un odoraccio chimico all'interno, deve essere il trattamento anticorrosione che gli hanno fatto nella caldaia, però ha un brutto odore, quindi sto facendo varie cose a vuoto di acqua, di sola acqua, poi gliela farò col caffè per mandarla un po' in pressione. Poi come perde quell'odore lì inizierò a utilizzarla, ecco. Eh sì, come tipo le macchinette, quelle per il caffè, dai, quelle a cialde. Le prime bisogna un po' buttarle, prima il caffè, perché c'è quel, come dici tu, quell'odore, quel trattamento. Eia, poi sai cos'è? Sono tutte fatte in Cina alla fine. Oh, se ti fidi anche le bialetti ormai non le fanno manco più in Italia. Infatti questi odori strani chimici sono ambigui, capito? Meglio evitare. Meglio dargli una bella rodata così a vuoto. si è registrato. Sì, ormai è tutto decentrato, il lavoro va dove costa meno la manodopera. Avanti, break. Buonasera, 7351, doppio room, avanti. Ciao Gianni, ciao, un abbraccio anche a te, mi hai sentito. Ciao Fra, un abbraccio. Tutto bene? Ehi dai, andiamo avanti come sempre. E tu? Io dico sempre, per andare peggio è meglio così. È una teoria che abbraccio anch'io volentieri. Giusto, giusto, guarda, tanto adesso è un tirare a campare. Ciao Gianni, ben sentito dopo tanto. Marco, che tu sappia, la Turbo 2001 deve funzionare in cortocircuitata. Signore. Allora, la Turbo 2001, che io ricordi, era cortocircuitata nella base, cioè non nella bobina, ma nella base dell'antenna. Ti risulta? Forse Franco se lo ricorda più di me. E mi pare che me l'avessi detto tu all'epoca. In corto lavora. Come la Sigma PLC 800. Abbassa Natalia, abbassa Natalia. Cosa abbasso? Io mi non faccio una telefonata perché l'ho venduta questa antenna, mi ha detto che è cortocircuitata, che è cortocircuito, ma io mi ricordavo che funzionava così il cortocircuito. In cortocircuito funziona, devi andare a fanguarla quello. Il microfono abbassa Natalì, ti porti da presto tutto quanto. Bene, va così. No, abbassa, abbassa. Che si abbassa un uescio? Uscendo sto. Ehi, abbassa ancora. È che era troppo rumore ambiente, lui, capito. Ciao Natalì. Così va bene Natalì. Ciao Marco. Ehi, sai cos'è? C'è rumore ambiente. Quello da tavolo te lo fa sempre. Invece col mic normale sei perfetto. E vabbè, comunque è già andata bene, la modulazione è limpida. Quindi sì, cortocircuito, ma Natalì, ti ricordi questo particolare? Che il cortocircuito è nella base dell'antenna, non nella bobina. Perché c'è una boccola per mandarla in corto, è fatta apposta. Ehi, comunque già, digli al tipo, cioè, se lui la monta e riceve e trasmette alla stazionaria, è giustamente cortocircuitata, sì, però per la per le cariche statiche, capito? Una cosa invece se le va in corto completo che non può trasmettere. È un cortocircuito, diciamo, programmato. Sì, avete parlato in due, passato Natalino. Chi era l'altro? Io. Ripeti Fra. Ho detto che è un cortocircuito studiato proprio, no? Programmato proprio. Sì, sì, sì. Io chiedevo, infatti, anche quando ho comprato la 5 ottavi, vabbè, l'avevo visto già online, però ho chiesto anche a quello della GBC se era cortocircuitata, in modo da sapere, perché uno va col test e dice, l'antenna è in corto, è fatta apposta. Anche quella della macchina, quella che avevo in macchina, c'è la capsula in ottone che la manda in corto. Ah, di quello non ci ho badato. Riprendete che vado a fare la seconda cosa a vuoto qua. E tolgo il bip che mi sta anche mangiando il cervello. E io non la posso togliere. No, è questo che però è brutto. Vabbè. Comunque tutto bene qua. La modulazione è limpida, c'è qualche difetto, alternate, saturazione. Perfetta. Va bene la modulazione, Marco. Sì, ho Natalì. Lo sai che non si è più ripresentato quel problema all'antenna, apparentemente? A meno che non avessero addossato tubi metallici e pezzi di impalcature proprio a ridosso dell'antenna. Quella volta che avevo le stazionarie oltre due, ti ricordi? Sì, già me l'avevi detto. Ma evidentemente è successo qualcosa nel cavo quando l'hanno spostato, forse. Ma sarebbe rimasto il danno, invece adesso è 1-1, da, non è proprio 1-1, 1-1. Però quella volta era. Probabilmente avevano accatastato magari pezzi di ponteggio proprio a ridosso dell'antenna e magari vicino ai radiali ne hanno risentito. Boh. Va bene, a dopo, dai, riprendete. Gianni, riprendi. Ma sta battagliando con a chi ha venduto l'antenna, me. Vai, mi sta riprendendo. Di cui abbiamo parlato. Avanti Natalì. Io ne sto tornando dalla visita oculistica. Com'è andata? E la cataratta, cioè non vedo perché non c'ho le cataratte, cioè se due gli sì, ormai è un intervento di routine, dai. Credo con laser un paio di minuti sia a posto. Sì, mi ha detto di farla fare, vuol dire non è pronta ancora per essere operata. praticamente mi ha detto che mi mette in lista fra 8 mesi, ha detto di andare, che gli occhiali non c'è bisogno di cambiarli, che vanno benissimo. Se fai tutti e due o solo uno? Ah, tutti e due ce li ho. Prima mi ricordo, facevo prima un occhio e poi l'altro, per non dare, per avere sempre almeno un occhio, diciamo, tranquillo, dai. Riparavano in sequenza, prima uno e poi l'altro, appena ti riprendevi. Oggi non so se fanno tutto assieme. Io ne ho fatto uno al policlinico e uno all'ospedale civile. Oggi non so se con laser si guarisce più in fretta, boh, non lo so. No, mi hanno proprio operato, mi hanno cambiato questa lì. E quindi ti hanno messo la lente, diciamo, artificiale all'interno? Esatto. Ti aspirano quella roba, una specie di gelatina che c'è, ti mettono la lente, l'ho visto l'intervento, la piegano in due, la infilano da un taglietto che c'è tra la pupilla e la cornea. E poi mi ricordo mia nonna l'hanno operata, si vedevano anche i punti, io vedevo i punti che poi si riassorbono naturalmente, dai. Io pensavo che l'occhio come lo pugliese si sgonfiasse. Avevo questa teoria, capito? Dicevo, come fanno a operare l'occhio? Non si sgonfia. No, è un ammasso tipo, vabbè, no, vabbè, l'avrei visto, non so, mangiato, qualcuno se li mangia anche gli occhi, dice che sono anche buoni, come è fatto più o meno l'occhio, dai. Quello dei cristiani non l'ho mai mangiato, l'occhio di bue sì. L'occhio di bue, ma riferito all'uovo o all'occhio proprio occhio? Occhio, occhio, anche quello dell'agnello, io me lo mangio, è buono, è molto buono. Certo, la pallina bianca non si mangia, ma quello del pesce no, ma quelli degli animali, dell'agnello, del porcetto, ci sono due. No, anche quello del pesce è buono lo stesso. Guardate che non si è asciutto, dai. Anche lì c'è la pallina bianca nel pesce. Va bene, Natali. Poi. Cosa stai combinando? Pescando stai? Cosa? Stai andando a pescare? No, negativo, sono da una visita all'altra, cazzo. Vai, fidati tu, sono andato da un oculista e mi ha detto lieve catarata, invece mi raggiù, me da Amprosa in tutte e due i luci. Meno male sono andato a pagamento, sono andato da questa qui oggi. E mi ha scritto tutto, così gliele faccio vedere tutti e due i certificati alla diabetologa. Come si chiama questo oculista, peraltro? No, è una donna, Maria Pina Pintus si chiama. E via Bogino c'era Sini che è bravo, e praticamente professore all'ospedale, fa queste cose. Io dopo una settimana mi hanno operato, ho pagato 100 euro, dopo una settimana mi hanno chiamato. E a me lo stesso, mi ha dato l'appuntamento, sono andato a pagamento e via. Mi ha pigliato pure poco, 50 euro. E allora non è caro, io ne ho pagato tutti, però non sono stato ad aspettare come ho aspettato la prima volta. La seconda volta ho pagato, poi dopo una settimana mi stavo operando. Figura a me, adesso devo andare fra 8 mesi, così mi rifà la visita e se c'è da operarlo mi mette nella lista, ha detto. Lei è a Cagliari, opera a Cagliari, capitola, e quindi mi deve mettere nella lista di qua. Ah, ecco. Se no dovresti andare da lì. Se no devo andare a Cagliari, che cazzo me lo va a zebra? Fatela al policlinico che sono bravo. Già lo so, ma devo andare fra 8 mesi a farmi la visita prima. Per il momento non c'è bisogno di operare. Adesso questa storia della cataratta matura non esiste più, la fanno subito, non esiste. Io ne ho parlato e mi ha detto no, non esiste più questa cosa, no, non c'è più questa. La operiamo subito, così non ci pensa più. La prima e poi la seconda ho fatto tutte e due. Ho capito, ma la mia sta iniziando, mi capito. Diabete te lo fa, diabete micidiale, a parte diciamo l'età, poi anche il diabete. Lo so, vabbè, devo buscarmi anche il posto per l'attacco, cazzo, non vi so lui che va in Orarona, vabbè, già mi serve fra 3 mesi. Anche io devo fare elettrocardiogramma. Mi hanno dato a ripicco, a maggio. ogni giorno tu. Anche a Marungiu prova a telefonare, te lo fai dare l'appuntamento. Ma l'ha già preso il cupo, capito? Ma ogni giorno telefona tu se si libera qualche posto prima. Cazzo, io l'ho già fatta la visita cardiologica e l'elettrocardiogramma, ma non ho fatto. Addirittura al centro ipertensivo lì devo andare io, che è di lusso quella dottoressa. Mi ha fatto una visita. Ma dove? San Camillo? Sì, al centro ipertensivo l'ho fatta io. C'è questa dottoressa che è di lusso veramente. E allora? Lo so, ma l'avevi detto che ti aveva fatto una visita accurata. Infatti. Frank, avanti. Ma quelli che dico c'era Piccinini prima, mia nonna aveva operato Piccinini, anche mio padre credo. Anche a mamma. Ormai chi c'è adesso? Non lo so chi ci sia, però io l'ho fatta lì. No, vabbè, a me mi aveva operato. No, non l'ho fatta io lì al politico. Al politico ho fatto. Stavo confondendo, ho fatto il femore. Io l'ho fatta alle cliniche di San Pietro. E mi aveva operato sì. Dona Era c'è al policlinico. Ho capito, Dona Era. C'ho anche parenti io, Dona Era. Di Dona di Ussi. Esatto. L'altra volta al policlinico per il fondo dell'occhio. Zitto! Basta! Ti picchia! E beh, come sta il cane? Già fa bene, un rompiballe. Mi ricordo, eravamo rimasti e l'avevano musicato l'altra volta, ti ricordi? Zitto! Aspetta a me! Il giornale! Monello, dammi il giornale! Dammi il giornale che lo picchio! Mi avessi cagliato un duro! E fuggi! Allora dimmi! Io ero credo che era Vrea! Avanti già! No, io mai col giornale, non l'ho mai. A me la verità, uno si comporta male con me, dai. È molto coccolone nei miei confronti. Come ti intendi a che cosa subito si può abbaggiare? Pure la sua pastore tedesco che va più, ti mi ero giornale, cazzo, che era Vrea. È roba antica, Elisa, del giornale. Molta gente lo usava, lo arrotolavano e lo facevano vedere e si spaventava il cazzo. Invece gli uccelli, i pappagalli temono il bastone. Come fa vedere il bastone subito. Ehi, Franco Rubati va a farsi entrare, rovina nella gabbia, ti fa dividere un ruccio e subito z'entra. Ehi, ma mica glielo tiro, lo fai vedere e basta. Ma sono curiosi. No, ma loro entrano da soli, i miei non c'è bisogno del bastone. A volte vanno sopra la cucina e siccome ho metto la carta per il grasso e cose sopra i pesci, loro prendono la carta che metto e si mettono a fare la pezzettini piccoli e la buttano giù, si divertono. Quanti ne hai? Tre. Sì. Lì sparirà, come mai? Uno è un figlio, cos'è? Tutta una storia c'è fra. Allora, uno mi era scappato. Mi è scappato, mi è volato dalla finestra e ciccia. E Tyson, siccome ci ha sempre giocato con questo pappagallo qua, l'ho portato in giro a vedere se riuscivamo a trovarlo. E si fermava sempre sotto questo palazzo. Io lo sentivo un pappagallo, ma dicevo, magari qualche altro pappagallo. Messo su Facebook e niente, e allora ho preso e ne ho ordinato un altro per non lasciare quello da solo. L'ho dato perché questi padoloni gli vogliono la metà, gli devi spedire la metà di su, e gli ho fatto il bonifico. E dopo che gli ho fatto il bonifico ricevo questa telefonata e questa signora mi ha detto, guarda, io ho visto su Facebook che sta cercando pappagallo. Io abito in via Nubi, proprio dove si fermava Tyson sotto il palazzo, e ha detto il numero era quel palazzo lì. Tyson aveva affittato bene, era lì. Sono andato e me l'ha ritornato, mi ha detto che come l'ha visto nel terrazzo mi ha messo in braccio ed è salito sopra. Ci si vedeva che era un pappagallo domesticato. Hai visto che bravo Tyson, eh? Aveva trovato, capito? Ero io che, cioè, ma che poi dove andavo, fra? C'era un palazzo alto, alto, cavolo, dove andavo a cercarlo? Ed era in terrazzo, perché questa signora non te ne aveva terrazzo, ha tenuto 3 giorni. Via lui, alla fine? Non proprio alla fine, dove ci sono le palme, diciamo che poco prima della fine, dai. È una palazzina alta. Non le ultime che hanno fatto, ma quella che c'è un po' prima, ci sono delle palme, non so se ce le presenti. No, no, pensavo che parlato gli ultimi che dove ci sono le antenne della telefonia. No, no, non lì, no, quello più giù, quello lì. E vabbè, comunque me l'ha ritornato. Questa signora gli ho detto che cosa li dovevo dare, mi ha detto no, non ti preoccupare, sono contento che abbia ritrovato il padrone. Tanto io non lo potevo tenere, non sapevo come tenerlo, ho chiamato un amico che c'ha l'allevamento di pappagalli e mi ha detto che quello era un pappagallo speciale, che non mangiava semi, che mangiava solo pastoncino, e mi ha portato un po' di questo pastoncino, gliel'ha fatto e lui lo mangiava, ma era un bel liquido come l'avevano fatto, ma con quello lo sapeva fare. Lo devi fare tipo lo yogurt, capito? Deve essere, non deve essere liquido, se no fa la diarrea. E fatto sta che l'ha messo in una gabbia di un coniglio, perché lui c'aveva dei conigli, e l'ha messo in una gabbia di quelle basse, poveracci. Quando ha visto a me subito si è arrampicata la gabbia per venire, è venuto subito. Cioè, ti ha riconosciuto? Sì, l'ho preso il trasportino, l'ho portato a piedi col trasportino a casa. Forte, dai, quindi ecco perché ne hai 3 adesso, dai. C'è il trio, vanno d'accordo? No, ce l'ho in 2 gabbie diverse, il terzo non l'hanno accettato, siccome quelli erano già una coppia. Ho provato a metterlo ma lo picchiava, allora ho dovuto prendere un'altra gabbia e metterlo in. Vabbè, dai. Avanti, Natalì, poi mi dirai se è maschio o femmina quello che l'ha scappato, dai. Maschio, maschio. Ehi, Natalì. Uia. Mario, busca una femmina, pappagallino. Sì, uia, non ha già cercato. Giustamente rigoso, chi va giù? Ora niente. Stai facendo un po' di scariche col microfono. Ah, Natalì, fa pagare, Callanini, ancora. No, no, non c'ho più nulla. Capito. Faccio capito. Mi sa vedo un po' di fame, che vai? Lascia vedere. Non ti ancora presto. Oggi sono andato all'auto A per comprarmi i tappetini della macchina. Indovina quanto costava. Originali? Sì. Che macchina è che non mi ricordo? La tipo. Un centinaio di euro. No, 50 euro. Sono andato dai cinesi, 12 euro. Hanno la stessa forma. Però chi se ne frega, tanto ci rimetto i piedi sopra. Sono bellini, sono neri. No, non ne l'ho preso. Oh, io ho pagato una spatola di elettricità, lo 50 euro per la Smart, non ti ricordate. Oh, io ho cambiato, l'altro giorno gli ho cambiato la spatola di dietro, perché l'ho portata al lavaggio e con la pressione della pompa mi ha staccato, me l'ha crepata. Magari si stava già scollando, però siccome dove vado io c'hanno proprio la gomma solo, non sta a cambiare tutto il cristallo, Normalmente si dovrebbe cambiare tutto il pezzo e questa è la banca di soldi, gli dico 5 euro, te lo cambiano e ti mettono la gomma nuova. Sì, molti sono intercambiabili le gomme, no? Molte spazzole. No, io per la Smart ho provato con quelle cinesi, ma lasciavano sempre strisciato sopra, sotto, in mezzo. E che 50 euro, 2 spazzole, esagerata la cosa originale lì alla Mercedes, dai. Questa è una marca di soldi e cose, non ci vuole fare nulla. Io ho cambiato la bobina della candela perché mi andava a colpi la macchina, non prendeva i giri a vuoto, andavo a vuoto. L'ho portata e mi ha detto guarda, o è una candela che vuole cambiata o è la bobina, adesso vediamo. Ha fatto un test e mi ha detto guarda, è la bobina da cambiare, portamela, adesso la ordiniamo, ti telefono quando arriva e me la porti e te la cambi. Me l'ha cambiata, pensavo che fosse una cosa da poco. Mi ha cambiato le candele e quella bobina lì, 100, 200 euro, 160 solo la bobina, che è un pezzo di plastica. Io ho cambiato una candeletta solo con la macchina di mio figlio, 70 euro con la manodopera, una candeletta. Beh. Ma io ne ho cambiate tutte, già che c'erano, ho detto di cambiarle tutte perché non le avevo mai cambiate. L'italiano le rifacevo, mi dice, poi quando è a gas la macchina, le candele durano una vita. Sì, perché sono belle pulite. Anzi, io avevo messo nella mia a gas quelle candele speciali che hanno mi sembra che erano a 3 o a 4 litri, che hanno una scintilla superiore, quelle iridium, mi sembra che fosse della Bosch. Costavano un po' di più, ma dice che hanno una resa migliore. Ma no, queste io parlavo candelette quelle per di accensione per macchine a gasolio, capito? Quelle candelette lunghe. Sì, sì, ho capito, sì, sì, sì. E anche nel furgone le cambiamo in Italia. Sì. Stava partendo male, poi mi ha dato anche mi si è accesa la spia arancione, quindi ho detto, bisogna dargli una sistemata, dai. Avanti, Natali. Sì, dai, mi sto ascoltando che sto mangiando. Ehi, beato te, roba buona c'hai. Pasta asciutta, poi un altro po' di roba. Dai, andavi, dai. Buona cena allora, o merenda, cos'è? No, credo che sia una cena, dai. Avanti, già. Oggi ho mangio la messicana. Piccante, caliente? No, mi faccio fagioli, cipolle, tonno, che ne ho voglia. Io oggi ho portato, io sto mangiando fuori, purtroppo sto seguendo un'impresa, lavoro mattina e sera. In genere porto sempre pasta, gnocchetti o roba così, pasta che tenga un po' la cottura. Oggi invece ieri ho fatto il minestrone, mi ho portato il minestrone con un po' di pasta sempre. Ah, pensavo che te lo pagasse l'azienda. Bra. No, sto seguendo questa impresa. A volte mangio con loro, ma in genere me lo porto da casa. No. Secondo dove siamo, zone dove si può andare a mangiare pure lo facciamo. Ma se sei in campagne sperdute dove passa, te lo sai dove lavoro io, te lo devi portare appresso. Ah, beh, certo. E lontano stai andando questo qui? Beh, ho iniziato da Alghero, adesso siamo già nella zona di Olmedo, dobbiamo arrivare a Sassari. Adesso se la facciamo a finire questa settimana la zona di Alghero, di Olmedo, e poi ci avviciniamo verso Sassari, la zona di Santa Maria, motorizzazione, quella zona lì. Cosa state facendo sostituendo le trave? No, c'è un'impresa che sta facendo recinzioni. Ah, e voi le seguite e basta, non fate. Perché sa mai che l'investa il treno, quindi per la sicurezza mandano a noi per controllarli, no? Beh, certo. Le cose devono essere sicure, non è che si possa scherzare su queste cose. Ho visto quella trave che è caduta e il continente ha ammazzato gente. Cavolo, c'è drunca dentro. Adesso sì, qualcuno lo chiappetteranno. C'è un problema di calcistruzzo o qualche errore nella posa della trave, e chi lo sa, qualcuno ha sbagliato sicuramente. Sì, ha ceduto sicuramente, ha ceduto il cemento. Sono pesati quei traboli lì, magari hanno messo un po' meno cemento da una parte e ha ceduto, che ne so, come li fanno. Prima c'era la SCAC qua a Sassari. Sì, lì a Ottava, Laico, mi ricordo anche Laico. Adesso faranno le analisi, controlleranno la composizione del cemento, della base dove andava appoggiata la trave, si hanno risparmiato col calcistruzzo, col ferro, il diametro del ferro, dell'armatura. E qualche cosa è successo comunque. E si hanno rimesso. Qualcuno era clandestino addirittura. Sì. E addirittura non c'era manco per lo stesso giorno. Proprio clandestini erano, oh, mamma mia. E comunque in cinque ci hanno rimesso le penne. Ehi, quando ti cado con le cose non te la salvi, perché ti sono bizzanti, li trovo. E poi i solai, no, si sono sfondati a catena, cioè da uno passava all'altro, poi cedeva l'altro. Non so quanti piani saranno crollati, buh. Oh, yeah. Cosa deve succedere fra? Chi ha ragione, bisogna stare molto molto attenti a queste cose. Deve essere pignoli, ci vuole la pignoleria proprio questi lavori qua. Diciamo così, a noi ci mandano, guarda, ogni tanto a fare corsi sulla sicurezza, però poi la realtà, quando vai nella tua azienda dove lavori, la realtà è un'altra, capito? Non sempre vengono rispettate le regole. A volte, se ti lamenti, ti dico che non hai voglia di lavorare. E non è così. Noi non facevamo il corso a CCT, ne dicevano, ne facevano, facevamo corsi, ci facevano le domande, eccetera. Poi quando prendevi il furgone ti facevano caricare il zoo, dove caricarvi l'alimentare e caricarvi anche la condessa. Ma... purtroppo è così. La realtà è ancora qua in Italia, è molto diversa. Tutti, anche i corsi per il comportamento col cliente ci facevano fare, i corsi antincendio, i corsi di primo soccorso, io quello non l'ho fatto perché ho presentato la testata e non me l'hanno fatto fare, anzi volevano che facessi il responsabile, ma mi sono rifiutato. Adesso l'ultimo che abbiamo fatto addirittura sulla segnaletica stradale, siccome a volte diciamo la ferrovia si interseca, si incrocia con la strada, no? E può capitare che devi fare dei lavori, devi sapere che segnali mettere per interrompere la strada, distanze e cose varie. Quindi addirittura ci hanno fatto simulare dei lavori in corso, dai. Sia mezza carreggiata o tutta. È stato un bel corso, li abbiamo fatto lì in zona di Cagliari. No, io già li facevo tutti qua, e facevamo nella sala riunioni, noi la facevamo lì, nella sala riunioni ci facevano i corsi. Un po' pesante, che a volte erano 8 ore di fila, cavolo, di teoria e poi di pratica, e poi anche la pratica. Non dirlo a me, per carità, specialmente quello dell'antifortunistica era un bel lungo, mamma mia, non finiva più. E poi il viaggio, cioè 3 ore andare e 3 ore a tornare, in più 8 ore di corso, mamma mia, entravamo bolliti qua. Lo posso immaginare, già ti bolliti col corso perché facevano tutto di fila. Vabbè, non li mettono in atto le cose, cosa fanno a fare i corsi se poi non le mettono in atto? Sono, come dire, delle atti dovuti, cioè ti devono mandare per forza per metterti in regola, se no l'azienda non può andare avanti, quindi quei corsi sono obbligati a farteli. Dove ha trovato dei antinfortunistici, ma poi la CCP ho fatta la Confcommercio. Sicuro. All'inizio avete parlato in due, uno o due ne ho fatto di quei corsi antinfortunistici e poi anche la CCP alla Commercio fa. E la Paoli? Tutto, PLS, primo soccorso, di tutto ti valli, antincendio. Di soccorso ne davidemo. Vabbè, dai. Ripeto, sono contenti a farli, se no l'azienda chiude. L'hai visto fra quel furgone che fa i panini, che sono andati ad Alghero a fare i panini e roba del genere, si hanno messo il defibrillatore, hanno fatto i corsi e c'è il defibrillatore nel furgone dei panini. No, non l'ho visto. Da noi qua in azienda l'hanno messo già qualche anno fa, ce l'abbiamo proprio dove c'è il nostro spogliatoio, dai, all'esterno, però in modo che è accessibile anche dall'esterno. Quello lì bisogna saperlo usare, bisogna sapere come usarlo, perché se no, se non fai i corsi, non lo sai usare. Ti attaccano un cartello vicino, ti dicono più o meno come fare, uso e manutenzione. E soprattutto bisogna allontanare la gente quando si usa quello lì, che se si bilare anche carica, se rimane niente. Se ne prende uno e muore l'altro. Come succede, no, negli incidenti stradali, che magari un parente si ferma e vede, cosa ti posso dire, la madre vede il figlio che ha avuto un incidente, che subito si butta addosso. Quelle cose bisogna evitarle, perché se succede una cosa del genere è guai. Sì, infatti chi fa il soccorso deve essere molto attento a allontanare la gente, uno deve prendere possesso della situazione. Il DAE si chiama. Il DAE? DAE. DAE. Dai, dai. Se è un acronimo, cos'è? Cosa? È un acronimo questo DAE. Sì, sì. Vuole dire qualcosa, dai, un'abbreviazione, dai. Sì, c'era un'abbreviazione, ma pare in inglese, mi sa. Sono tutti acronimi in inglese, spesso e volentieri. Anche queste cose che mi danno fatica, tutte queste abbreviazioni che poi non mi ricordo mai. Defibrillatore automatico di emergenza vuol dire. Sì. Quello male che c'è la famiglia che ti ricorda le cose. Io sono anni che non le faccio più. Ne ho fatto 17 anni anch'io. Allora basta, dai. Però defibrillatore non l'ho mai usato, la verità. No, neanche io per adesso. Neanche massaggi cardiaci, niente. Quelli sì, quelli ne ho fatto. Qualche respirazione bocca a bocca mi faccio ogni tanto, ma sono donne. Ce l'ho io. Anziane che non ha lì tu, se ti piace. No, allora usiamo il tubo dello Scotex. Bene va, andate. Oppure un tubo in PVC da 40. Ma io la metto a bocca a pompa direttamente. Purtroppo capiteranno anche quelle situazioni lì. Comunque, ripeto, ormai sono attrezzati, comunque avranno quegli adattatori, dai. Ah, se ci sono le mascherine, respirazione bocca a bocca non si deve di più. Se sei attrezzato, se sei con l'ambulanza, almeno che tu sia una persona così che sta passando e vedi uno che sta entrando in arresto, allora lo fa. Gloria. Meglio non trovarsi mai in queste situazioni, eh? In effetti sì. Oh Natalia, lo sai che ho trovato al quadrato l'altro giorno? La walkie talkie, te lo ricordi? Gianni Campos. Ah, cappa. È entrato con due F soccorsi. Ho capito. Quello sai cosa aveva fatto una volta? Cioè era fissato con le manette, con queste cose qua. Mi aveva attaccato al palo, fuori, con la mano e con le manette, e poi si era dimenticato le chiavi a casa sua, la bagaglia. Cioè, sono stato tutta la sera aspettando a lui che tornasse dai punti con le chiavi per aprire. Tutta la gente che mi guardava quando passava. Che lo vedi? Dove c'è la Croce Blu, dove c'era la Croce Blu prima, vicino al cinema Rex, lì c'era un palo, lì mi ha attaccato al paletto per farti vedere come cazzo, e poi si è dimenticato le chiavi a casa sua, non c'erano le chiavi, è dovuto tornare agli punti a prendere le chiavi e ritornare, io sempre attaccato al palo, ma che l'immagine? Un genio brutto, un cranio. Oh, yeah. Tutti i colori. Cosa? E ci aveva manganelli, ci aveva manette, tutte queste cose qua, non collezionista. Tipo Saramato, dai. Mi piacevano proprio, esaltato, mi piacevano le armi, tutte queste cose qua. Ho avuto un collega una volta, Valentino si chiamava, poi è andato via da lui, dall'azienda nostra. Anche lui aveva fissato queste qua, coltelli, manette, roba così. Sì, c'è molta gente, ognuno ha i suoi yuppi, dai. Sì, più che altro manie, boh. Aveva un coltello, tipo quello di Rambo, e che dentro c'aveva anche l'ago per sutura, il filo, no? E questo ne aveva uno con la bussola addirittura, di coltello, cioè con la bussola nel manico. Può essere. Io mi ricordo una volta abbiamo tolto tutto dentro, ci abbiamo messo una buccia di merendine, di mandarino dentro, infatti si era incazzato una volta. Era un po' strano, Mi ricordo che aveva un periodo la X19, te la ricordi quella macchina? La X19 della Fiat. Non ce l'ho presente, mi ricordo il tipo di macchina ma non ce l'ho presente adesso. C'è internet, guarda, tra quelle macchinette piccoline, come si chiamano? Sportive, mi sa che erano due posti. Aveva il vizio di partire, no? Sgommando, un giorno il mio collega prende e gli attacca un cavo d'acciaio da dietro a un aratro che c'era lì parcheggiato di un pastore. Parte, si è staccato l'avantreno. No, cazzo che scherzi. Ha fatto un bel danno, l'ha fatto. E non l'ha fatto pagare? Non so, non gliel'ho fatto io il danno, gliel'ha fatto un altro collega, nostro. Lui, un giorno giocandomi con un bastone, uno lanciava la pietra e l'altro colpiva col bastone. cazzo, figlio della pietra, quest'altro collega, è che va a prendere, sempre a lui, cazzo in fronte, lì si è spaventato, pensavo di averlo ammazzato, un po' di sangue dalla fronte. Che scherzi. Giù che è dal mega proprio. A me mi avevano fatto uno scherzo una volta, mi avevano messo una pietra sotto il freno del cane e dovevo fare una discesa, era Monte Rosini, dovevo fare una discesa proprio ripida che poi andava a finire sulla strada principale e ho scalato, quando ho andato a frenare il camion non frenava, ho visto che era così, ho preso, ho scalato, di nuovo ho messo la prima e mi sono ammacciato a un macciolo di roba. E già si è fermato, mi sono fermato a un millimetro dalla strada, stava passando un altro treno, se andavo dritto mi avrebbe ammazzato. E ho scoperto chi era. Era quello che guidava la ruspa alla discarica, perché sono andato a buttarci il cartone lì, no. E da lì c'aveva una di quelle pistole, ce ne puoi dire quelle pistole a spruzzo, quello di quelle tipo mitragliette, aveva di qui da faccia. Ma non ho capito che cosa ti ha fatto, che scherzo ha fatto. Mi ha messo una pietra sotto il freno. Ah, sotto il pedale del freno. E allora io andavo a frenare e non frenavo. Quello è brutto, eh. Brutto. Quello è da coglioni, brutto. Ho sterzato e mi sono ammacciato da un robo. Non ho fatto né danno né nulla, ma poi se l'ho reso di tutto, non ne sono accorto. Mi sono incazzato di brutto, il giorno l'avrei ammazzato. Natalino ha detto scherzo proprio da C puntini puntini puntini. Chiama lo scherzo. Questo qui era di campanella. Sì. Se per Ciappandoglio l'avevi truncato anche Manico di Mickey Natural. E se mi aveva fatto uno scherzo del genere. Lui. Facciate a faccia, due a due, pensa a diventare dispari me. Quelle mitragliette ad acqua, ce le prese, te le ho tirate a faccia, le ho grimmate in faccia. E io l'avevo avuto invece un colpo di Manico di Bicco. Non vi sarà stato anche tubo di ferro, non lo so. Se uno ti fa uno scherzo del genere è come che ti abbia sparato, perché ti puoi ammazzare. Quello è uno scherzo del cavolo proprio. Sì, vuoi ammazzare qualcun altro? Se ho visto l'autotreno passare, per poco lo mi ammazzo davvero. Se non ce la facevo a fermarlo mi sbattevo l'autotreno. Meno male sei stato attivo a usare il cambio per rallentare, lì. Sì, ho messo la prima, l'ho frenato così, ce la facevo. Sì, ho il freno a mano, per esempio. Qua, tutte le ho tentate. Tirate anche il freno a mano, ma che sul freno a mano andava, non funzionava bene. È inutile che io tiravo perché non frenavo. Ecco, ritornato, sì. Sì, ho fatto il caffè, bevuto e tutto, ha passato l'esame al caffettiere Inox. So che Inox è un po', non lo so, sembra così sterile, c'è volte più saporito quello fatto con quello in alluminio, ho impressione mia. Qua, quella Bialetti era la migliore, non ce n'era, mamma le prendeva sempre Bialetti, quando le prendeva le caffettiere. Io ne ho due. Eia. No, ma guarda, è un dirigente concorde che preferisce farlo con la Bialetti o simile, basta che sia in alluminio. Non lo so, in cosa sembra che sia quasi boost, non lo so come definirlo. Dico che sia più saporito, non lo so, a che livello lo facciano questa comparazione del gusto. Magari è tutta una sega mentale. L'alluminio oscilla un po'. Sì, l'alluminio ossida, chi lo sa, magari è quello che gli dà quel sapore in più leggero al caffè, che è gradevole, mentre la Sainox è più, diciamo, neutro. Non lo so, chi c'era sotto? No, ero io che stavo ridendo, perché ha detto magari è quello che gli dà sapore buono. Può darsi. Sì, magari, che ne so, chimicamente, a parte che anche se la lavi in quella di alluminio, nel contenitore dove va proprio il caffè pronto, magari sempre uno strato, quell'aroma di caffè rimane sempre, anche se la sciacqui. Non lo so, ci sarà qualche spiegazione. Magari, ho detto, sono seghe mentali di chi usa i due tipi. C'è anche la napoletana, non l'ho più usata. Quella è bella, la capogogio, com'è? Teia, solo che io, non essendo pratico, una volta sono andato a capovolgerla, sai, due manici che devi tenere contrapposte, no? Però anziché tenerli bene in asse, li ho, come dire, verso la fine, no, verso di te, li ho piegati verso le mie, si è aperta, è uscita l'acqua bollente, mi è andata bene che non ci sono bruciato. Quella napoletana è inox, è in acciaio, sì, carina, alla fine il caffè poi è sempre quello. No, io la ricordo, anche quella è in alluminio, forse da mia madre, boh, ma roba vecchia, ormai è anni che usiamo la macchinetta, boh. Sì, ma poi sai dove è fatta la caffettiera napoletana che ho io? E in acciaio inox, vabbè, per i tempi più moderna, ma è fatta in Cina, se tu guardi le istruzioni, anche se dicono un marchio italiano, ma tutta roba fatta in Cina. Ma l'Italia cosa fa più? Avete visto, non fa più macchine, mi pare abbiano chiuso pure Maserati e non so cosa. Tutto, ci siamo venduti le chiappe ai cinesi. Ormai la Fiat è, diciamo che è francese. E ho sentito anche roba del genere, il gruppo Bore, no? E quindi cosa produciamo in Italia, a parte l'inflazione? Quella è la grande, galoppante. Anche te nega, no? E dico, sta scendendo, sì, ma dove? Forse sta scendendo nelle tasche dei ricchi, ecco. Oh, a noi ci stanno ammazzando, non puoi più comprare niente, latte, uova, olio, non ne parliamo, è tutto carissimo. Il pane, che dovrebbe essere quasi gratis, lo paghi a 4 euro, a 5 euro il chilo, io... Poi l'olio, non so se è notato, non va mai in offerta l'olio, sempre normale rimane, in offerta non c'è mai olio di straordinario. Sì, no, qualcosa c'è, ma poi cosa stanno facendo? Sono furbi, stanno diminuendo la quantità, ti tengono il prezzo, non so, 7 euro, però non è più un litro, è 750, o così la Coca-Cola non è più un litro e mezzo, ma è 1,30 e qualcosa, 1,40, guarda, stanno limando la quantità. Sì, sì, è così, me ne sono accorto io di quello. Cappa, confermo, è proprio una tattica rimarcata, loro ti illudono che lo stai pagando uguale o che il prezzo sia diminuito per certi articoli, in realtà puoi vedere i grammi o i litri e ti stanno dando meno prodotto, quindi ti stanno gabbando lo stesso. Oh, vabbè, si illudono, ma tanto se ti serve lo compri comunque. Però per dire, Franco ha spiegato bene cosa intendevo. Sì, io l'olio l'ho preso da un privato quest'anno, qualcosa, anche per mia madre, la cosina. Diciamo, ho preso a 7, parte a 7 e parte a 8, non era olio nuovo, era dell'anno scorso, però era buono, L'oliva? Sì, l'extravergine d'oliva, sempre. Sì, e comunque sì, l'olio, anche quello per friggere, quello di semi vari, il più misero, cioè da 1,19 da discount che costava, minimo, non scende più sotto i 2 euro, mi pare, 2,19, 2,49, aggiungai, vabbè, per poco non lo fanno pagare quanto l'olio d'oliva, vabbè, sto esagerando, ma... così è. E poi anche da lì sull'olio c'è da scrivere un libro. Ne hanno sgamato di aziende che lo vendevano per olio extravergine, invece non aveva nulla proprio, ma proprio nulla di olio. O che faceva arrivare gli olive da fuori, dall'Arabia e coso, e poi dal Marocco, e poi le facevano per Roma Santa. Olivi vecchi, li lavano, li centrifugano, li mettono con la loro fila, li fanno quello che vogliono. Quello lo costruiscono proprio l'estravergine, li mettono a clorofilla, olio di semi, lo colorano con un colorante, sembra un estravergine. Ma ci stanno maltrattando da tutte le parti, noi prendiamo colpi dappertutto. Ma. Guarda, è come la storia dell'olio a motore rigenerato per le macchine. Tu credi che sia nuovo, magari quello in offerta anche nei discount, quello di marche un po' ambigue, no? Ma certe volte anche lo Shell, mi pare, faceva cose del genere. Poi scopri, cioè non lo scopri quando hai fuso le bronzine o quando hai inchiodato il motore. Olio rigenerato, capito, chimicamente o termicamente trattato per sembrare nuovo, cioè... E infatti non ti puoi fidare, adesso ve ne dico una, martedì sera ho preso una pizza da un discount, no, non ho mangiato altro, quindi più che quello non può essere, una pizza, vabbè, di quelle surgelate per fare in fretta, era peraltro buonissima, poi di notte tardi cominciavano a venire i brividi, febbre, a 38, a un certo punto mi viene questo coso di, cioè, da vomitare, non dolore di stomaco, proprio lo stomaco aveva necessità di liberarsi, ma da uscire negli occhi. Poi appena rimesso, scesa la febbre, e quella non è altro che una reazione a qualcosa di nocivo, oppure una pizza mezza variata, venuta per nuova, capito? Ti ha crepato lo stomaco, ti ha crepato? Il minimo, una bella cosa è l'avvelenamento alimentare. Ti sei rovato, ti sei. Il fegato, le visite anche. Vabbè. Buonasera, si è trovato. Buonasera. Ho preso la cocaina, ho preso poi dice che la pizza. Ciao. Buonasera a tutti, ma qui, così è. Diga. Ciao, ti appena entrato, stavi appena come staccando. Sì, perché ho il marchio un po' difettoso, ci devo mettere un po' di CRC. Diga. Comunque sì, a parte gli scherzi, questa era proprio una chiara reazione di lo stomaco si voleva liberare, pure. Cioè, la scadenza era ben oltre, no? E come dire, il sapore era buono, non c'era niente di strano, eppure è capitato. Però è stata in forma anche, come dire, cioè dopo poche ore l'organismo l'ha rifiutata, capito? Invece un'altra volta, tantissimi anni fa, in un fast food, in tre, abbiamo mangiato un cheeseburger, era una cosa del genere, siamo stati male, ma male veramente. Ma tipo febbre, dolori muscolari, diarrea fetida, dallo stomaco non ti dico cosa è uscito, una cosa terrificante. Quella era una vera e propria intossicazione che ci poteva restare anche secco, ma è successo quello 30 anni fa. A me qualche volta, insomma, una volta le cozze me l'hanno fatto, cozze crude, però è colpa mia, qualche volta le ostriche, mi viene qualcosa di male, una volta anche i ricci di mare mi hanno fatto male. E a me una volta ho preso questa pizza in piazza Garibaldi lì, non ho preso che più turrato, ma ammazzato ora lì. Via, malissimo mi ha fatto, non ci sono più andato da lì, infatti dopo andavo sempre in quella di San Gavino, la pizzeria. Eppure nominato questo Massimiliano Celia, bro. E a me mi ha fatto male, vero? Le cose sono sicuramente. E la volta, dalla volta non sono più tornato lì. Molte esperienze le abbiamo fatte un po' tutti nei ristoranti. Avanti, Tino. Cazzo, no, a me l'ultima volta, forse ha ragione la carina però, ho mangiato delle cose crude. Praticamente forse non ero predisposto per mangiarle. La mattina mi sono alzato con un po' la bocca mezzo addormentata, no? Però un prurito fortissimo alle mani, che mi è durato quasi tutta la mattinata. Dopodiché mi ho preso una pastiglia, un ketoprofene, un sostitutivo del Lucchi, dai. E mi è passato, però insomma mi ha dato fastidio. Brutto, no, io quella roba cruda, le cose crude, sono stato due giorni a scariche, vomiti, ma crampi allo stomaco allucinanti, guarda, allucinanti. No, di quello grazie a Dio niente, però mi sentivo le mani gonfie, mi sentivo il formicolio, prurito, ma prurito proprio da grattarti, c'è presente quando trovi quell'intonaco grosso e passi la mano per grattarti, così ero io. È una sensazione brutta, vabbè, forse non ero, non va per bene, non lo so, non lo so da dirti. Il problema è che me l'ha fatto e insomma. Un'altra volta invece me l'ha fatto il gambero, però non erano freschissimi, forse per quello. Li ho presi dalle ruspine.